Check, check, 1, 2, senti come faccio il rap. Parto dall'ABC e ti tiro giù con me. È Mega Mouth e TDC. Cerchi il confronto, non ce n'è. Attacca la spina che sale, questa esclusiva fa male. Spezza la spina dorsale, non ci provare. Ehi, vuoi fare il classico, mastico il vocabolario. E voi all'astrico, rimasti in bianco sul diario. Note su pagine vuote che non serviranno. Tu invece conta quante ne ho riempite io quest'anno. Porto quantità, qualità, novità. E se qua c'è un genio sono io e la gente lo sa. Di là sei in alto soltanto grazie a chi ti nomina. E in quanto gira voce di te, ma è solo nomina. Io la vivo anonima tra palazzi freddi, ma un giorno il mio nome sarà leggenda come Freddy. Ti trucchi il viso tra lo schifo e parli di pudore. Per alcuni non sei serio se fai pezzi d'amore. Me ne frego del giudizio effimero dei vostri artisti, perché il mio canto è libero come Battisti. Battisti tristi, non valgono un dissing. E oltre alle battaglie impegnatevi a fare i dischi. Noi siamo teppisti, per questo ti prendiamo. Non siamo musicisti, però te le suoniamo. Da Roma a Milano e non faccio il finto hardcore. Io c'ho il fattore XL, tu quello small. E vivo rock and roll come Fonzi in Happy Days. Questa è musica esplosiva in esclusiva sul MySpace. Ti fai gli affari miei, potessi ti ucciderei. Io so quello che faccio, ma non quel che farei. Sto bene con lei, col mio DJ, con tutto il team. E ti dimostro che sto bene anche su un classico dei Queen. We will rock you. Remix. We will rock you. Exclusive.